È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui 18:38, i numeri per chiamarci 800 24 00 24, il numero di telefono, sms 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it, TG2. Intercettazione, il garante della privacy nella relazione al Parlamento. Il punto di equilibrio nella legge è spostato a favore della riservatezza. Il testo in aula alla Camera il 29 luglio. Dietro le stragi del 92 e 93 si mosse un groviglio tra mafia, politica, grandi affari, gruppi eversivi e pezzi deviati dello Stato, lo ha detto il presidente dell'antimafia, Pisano. Il dolore del padre di Pietro Taricone davanti alla tomba del figlio nel cimitero in Abruzzo. Serve tempo per accettare questa tragedia. La madre in lacrime. Massaggi abusivi sulla spiaggia, ordinanza del Ministero della Salute. È vietato offrire prestazioni. Troppi rischi in un luogo non adatto. Ai sindaci il compito di applicare il divieto. E andiamo ai primi titoli di Studio Aperto. Un bimbo di 2 anni ucciso dal padre, l'orrore in provincia di Lecce. L'uomo ha strangolato il piccolo dopo una violenta lite con la moglie, poi ha tentato di tagliarsi le vene, non è grave. C'è anche un pezzo della casa del Grande Fratello al cimitero di Trasacco, dove è stato sepolto Pietro Taricone. Oggi un lungo pellegrinaggio di amici e fans. Ai nostri microfoni il dolore del papà. Ammazzata in casa con 3 colpi di pistola in pieno volto. A Chieri, Torino, è caccia all'assassino. La vittima lo conosceva, gli ha aperto la porta. Si cerca l'ex fidanzato. Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale. E nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. Luca, ti ricordi? Sì, ti ricordi Guzzanti? Guzzanti, ma grande raccordo, il nostro inno. Ma lo sai perché l'ho messo? Perché una delle frasi del giorno, so che tu ormai vivi nelle nuvole e pensi solo alla trasmissione della sera. Solo a Luisella Costamagna. Solo a Luisella Costamagna, e va bene. Una delle frasi del giorno è quella del sindaco di Roma, Alemanno, il quale ha detto... Di fronte all'ipotesi di un pedaggio sul grande raccordo anulare, di cui si parla da anni e che non si farà mai, perché in Italia poi non cambia nulla, non cambia mai niente. Però se ne discutiamo ci litighiamo sopra. Però è un fatto, non cambia mai niente. Dunque, è impossibile, sfondo tutto. Esatto, non c'è alcun pedaggio sul greo, è una cosa impossibile. Se qualcuno mette qualcosa sul raccordo per far pagare il pedaggio, vado io con la macchina e la sfondo, sfondo tutto, sfondo il casello. Però mi piace a me questo Alemanno. Io lo so che ti piace, quando uno è così violento, quando uno è così... Tu c'hai questo tuo senso un po' legalitario, in un paese in cui non esiste nessuna regola, e se uno vuole mettere una tassa sulla strada di casa tua... Ma sai, io ho abitato sul raccordo anulare, ti posso fare questa rivelazione. La mia adolescenza... Vabbè, ma è sempre la solita storia. ...affacciata sul raccordo, e quindi? Posso dire che c'è gente che lo deve prendere per andare a casa sua, per andare a scuola... E beh, paga, e allora paga! Ma perché uno deve pagare per stare sul raccordo? Mettiamo la tassa sull'aria, ma che significa? Allora, perché uno deve pagare per andare in autostrada? La stessa cosa? Ho capito, ma il raccordo a Roma, come tu sai, ormai la città è fuori dal raccordo. Allora, è come mettere una tassa su 4 vie di Milano. No, ma non è così. Il grande raccordo anulare viene usato anche, non viene usato solo per gli spostamenti di lavoro, viene usato anche per lunghe distanze, eccetera, e soprattutto per no, ma vuol dire che è fuori dal raccordo. Ma non può essere tutto gratis, non può essere tutto gratis in Italia. Paghi un euro, paghi un euro di raccordo anulare, qual è il problema? Non c'è nessun problema. Fatemi sentire Guzzanti di nuovo. Guzzanti. Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare. C'è un'altra frase del giorno però, caro Luca, questa è veramente assurda. ed è quella pronunciata in Parlamento da Elio Vito, il ministro dei rapporti col Parlamento. Lo sai come ha giustificato la nomina di Brancher a ministro? Te lo faccio sentire perché è una cosa spettacolare, non ci potevo credere quando l'ho letto, dunque l'ho recuperato dal Question Time alla Camera di oggi. È stato promosso per operare un concerto tra i ministri. Sentiamo, Vito, perché? Si è ritenuto necessario che il sottosegretario Brancher assumesse la qualità di ministro per meglio operare in concerto con i tre ministri prima citati, così da conseguire una più rapida e completa realizzazione del programma di governo in uno dei suoi punti più qualificanti e complessi e nel doveroso rispetto del mandato ricevuto dagli elettori. Sei chiuso giù al controviale, c'è il distributore. Hai capito qualcosa tu, Luca? Qui ci vuole Verdone, ve lo ricordate Verdone? No, perché? Preambolo, e quindi operare di concerto con i ministri. Ma qual è quella che lo trovo subito? Lo cerco subito. Era Verdone che faceva l'imitazione dello pseudodemita e c'era Amici. Potevamo ignorare il preambolo? C'è tutto un parlare così finto burocratese, no? Perché è vecchia la lingua della prima repubblica. Recuperatelo, mi prego. Adesso lo recupero. È stato promosso ministro per meglio operare il concerto tra i ministri, così da giungere a una più rapida e concreta attuazione del federalismo nel rispetto del programma di governo e del mandato dei direttori. Ma l'ha scritto da solo o gliel'ha suggerito qualcuno? Secondo me è quel meraviglioso burocratese che vive nelle viscere del palazzo, sai, qualche capogabinetto, e poi quando si mettono a arrampicarsi è la lingua migliore, non è una lingua involuta, è il meglio per dire il peggio. Ma in questo caso trionfa addirittura Di Pietro, perché senti come ha risposto, Brancher come coagulatore, e se lo dico io che trionfa Di Pietro. Per quale ragione c'è bisogno di un nuovo ministero, nonostante che questi compiti già vengono assolti da quattro ministri? Fitto, ministro per i rapporti con le regioni. Bossi, ministro per le riforme e il federalismo. Vabbè, a un certo punto ha detto Brancher è un coagulatore, ma il coagulatore non poteva farlo già da sottosegretario. Vabbè, insomma, quando poi le dice giusto bisogna dirlo, no? Ma lo sanno tutti, è stato messo lì per salvarlo da un po'. Ancora con questa stupidaggine. Fa quasi simpatia. Va bene, c'è il traffico, però prima voglio presentarti un nostro ospite per parlare anche del raccordo anulare. Eccolo qui, lo presentiamo in questo modo. Tutto il resto è noia. Califano, come sta? Io sto bene, abbastanza bene. Voi? No, benissimo, noi soffriamo un po' il caldo, ma insomma è normale. È il caldo, quello. Senta, ma lei il raccordo anulare lo fa o no ogni tanto? Il raccordo anulare si è costretti a farlo, purtroppo. E lei lo pagherebbe, che ne so, un euro, due euro, il raccordo? No, io lo pagherei, ma se migliorasse qualcosa sì. Cioè, ma... se allargasse, più corsie, eccetera. Allo stato attuale però... Se allargasse, si facessero due corsie sopra. Fra poco, grande referendum tra alcune frasi che ha detto Berlusconi in Brasile, perché ha detto 14 cose, anzi, ne ho segnate 13 per la realtà. 13 cose, alcune politiche, altre no, insomma, molto divertenti. Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare. Tanto per rispondere a Telese, un ascoltatore da Milano mi scrive: Silvio, sulla tangenziale ovest-est di Milano si paga, è anche caro, e c'è gente che va al lavoro, paga e sta zitta, e non è che si lamenta. Sì, andiamo a lavorare, serve per andare a lavorare, come dice Alemanno, e dunque non si dovrebbe pagare. Chissà perché il grande raccordo anulare a Roma non si deve pagare. Bah. All'uscita 25 c'è a Laurentina. 13 frasi di Berlusconi pronunciate durante la visita in Brasile. Qual è secondo voi la più significativa, la più bella, la più divertente, la più spassosa oppure la più ridicola, come volete? La prima: le cose più importanti della vita sono le donne, il calcio e gli amici. L'ha detta, Casalotti Boccea. Sono l'unico italiano che scrive musica samba e bossa nova in dialetto napoletano. Qui voglio il suo aiuto, Califano. Esiste la musica samba e bossa nova in dialetto napoletano? La musica bossa nova si può fare in qualunque dialetto. E dunque Berlusconi, secondo lei, l'ha fatto? È riuscito a cantare la musica samba e bossa nova in dialetto napoletano oppure se l'ha inventato? E chi? Berlusconi. Dice che scrive musica samba e bossa nova in dialetto napoletano. Non l'ho sentito il disco di Berlusconi. Ah, perché lei dice che dentro il disco di Berlusconi c'è la musica samba e bossa nova, secondo me no. No, proprio non l'ho sentito, perché io non sento dischi. Non sente più dischi, come mai? No, no, ma non ho mai sentito dischi. Ah, lei non ha mai sentito non dischi? Non ho mai sentito musica mia, per esempio. Ah, non lo sapevo questo qua. Cioè, perché lei non ha mai sentito, ha sentito pochissimi dischi e manco la sua musica. Io sento il mio lavoro, mi annoia. Ah, d'altra parte, senta, ma... Berlusconi dice anche, frase numero 3, ci sono 14 mie canzoni nell'archivio storico della musica napoletana, come autore di canzoni sono già passato alla storia. Ma secondo lei è passato davvero alla storia come autore di canzoni Berlusconi, oppure gigioneggia? È peccato che lei trova un uomo impreparato. No, ho capito, però mi pare, insomma, passato alla storia come autore di canzoni di musica napoletana, mi sembra. No, nel ruolo, nel suo ruolo, nel ruolo istituzionale. Può anche essere vero. Ah, nel ruolo istituzionale, no? Come autore di canzoni di musica napoletana. Se lui fosse stato un giornalaio, non sarebbe passato alla storia. Io dubito anche che sia passata la storia anche come autore di canzoni di musica napoletana. Comunque, altra frase: sono il presidente del club più vincente della storia, ho 74 anni e devo dire che me li porto bene. Lula all'occhio birichino, ho chiesto a una cameriere se voleva, questa è famosa, ho chiesto a una cameriere se voleva farsi una ciulatina con me, ma lei mi ha detto che l'avevamo fatto un'ora prima. Tartaglia mi ha quasi ammazzato e lo hanno assolto, così passa il messaggio che se cerchi di uccidere il premier alla fine la fai franca. Questa, insomma, potrebbe anche essere discutibile. Il mio gradimento è al 63% in Italia, l'indice più alto di tutti i leader europei. Poi ho la fila di ragazze che vogliono sposarmi, anche questa è diventata ormai famosissima, adesso che sono ridiventato single. Per l'Italia la crisi economica è alle spalle, i lettori dovrebbero scioperare contro i giornali. E infine c'è anche un'altra frase sulle fidanzate brasiliane. Ho avuto 12 fidanzate brasiliane, questo... Berlusconi si riferiva agli anni 70. Voglio andare a sentire un ascoltatore che ci chiama da Crema, Angelo. Salve, eccoci. Dica. Io chiamavo, pronto? La sento. Eccoci. Chiamavo proprio partendo un po' da queste frasi di Berlusconi, che prima magari qualche tempo fa potevano essere divertenti, soprattutto per noi elettori, diciamo, di centrodestra. Adesso obiettivamente comunicano solo un po' di fastidio e parecchia irritazione. Ci sono tante cose che il governo di centrodestra sta facendo e noi ex ormai elettori non riusciamo più a capire. Che motivo c'era di un ministro come Brancher plurinquisito? Che motivo c'è di esultare addirittura a una condanna per 7 anni per reati, bene o male, che si possono ascrivere alla mafia per un nostro, diciamo, un nostro senatore? Insomma, io personalmente come comunque persona di centrodestra, ma non più elettore, sono seriamente, seriamente preoccupato e comincio a sentire un po' di puzza di bruciato. Non vorrei dovermi... Ma chi ha esultato per la condanna? Lei mi dice una parte del centrodestra dice, siccome non è stato provato il rapporto tra mafia, no, politica, eccetera, eccetera, esatto. Ha esultato per la esatto, condanna a 7 anni di denuncia. Non so, io fossi stato nel portavoce del PDL avrei detto, ok, noi abbiamo un senatore che è stato condannato in appello a 7 anni per reati connessi alla mafia e gli chiediamo di dimettersi. Io avrei personalmente detto così se non si fosse ancora dimesso da solo. E invece no, sembra poteva andare peggio, ecco, il messaggio che passa poteva andare peggio e quindi io dico, ma come poteva andare peggio? Ciò significa che ne hanno combinate di più. Però mi scusi Angelo, io le dico una cosa, personalmente trovo molto discutibile, anche se per carità ci sono magistrati e giuristi che la pensano diversamente, Grosso, oggi ho letto un'intervista su Riformista, poi anche il PM Ingroia, trovo molto discutibile e fumoso il reato che è stato contestato a Dell'Utri. Detto questo, poi naturalmente, siccome esiste il reato, i magistrati cercano le prove. Dopodiché, sulla questione dell'atteggiamento del PDL, finché non c'è una condanna definitiva, a parte che gli stessi commenti ci sarebbero anche in caso di condanna definitiva, giustamente Dell'Utri è considerato ancora innocente. La ringrazio. Sergio da Milano, buonasera. Buonasera. Dica, Sergio, dica. Sì, senta, visto che hanno reintrodotto l'argomento Dell'Utri che ho ascoltato attentamente l'altra sera nel momento in cui posso ascoltarla in macchina, io non capisco veramente cosa ci sia da esultare. Sei un senatore della Repubblica, fondatore di Forza Italia, all'epoca, giusto qualche anno prima, ma poco tempo prima, che prima di fondare insieme a Berlusconi Forza Italia sia stato, come sembra, colluso con la mafia. Non credo concorso esterno, concorso esterno in associazione a mafia, sì. Concorso esterno. Anch'io sono perfettamente d'accordo con lei che il concorso esterno è molto fumoso e andrebbe, se si vuole mantenere all'interno del diciamo del codice penale, sarebbe da misurare, allora, cioè da mettere i paletti, però essendo già la seconda delle sentenze, cioè diciamo il secondo grado di sentenza, sì. Diciamo che non siamo più al fumus, siamo un po' più. Vabbè, lei dice, siccome siamo già all'appello, i commenti devono essere diversi. Grazie. Massimiliano da Milano, mi sembra che monti la protesta di alcuni milanesi sul fatto che a Roma nessuno vuole pagare, o comunque nessuno pensa di pagare mai il grande raccordo anulare. Massimiliano, dica. Sì, buonasera. Io volevo soltanto dire che dalle telefonate mi sembra che una parte del popolo italiano si senta superiore a un'altra. E quindi pensano di non poter pagare, di non dover pagare come fanno tutti gli altri poveri cristiani, evidentemente l'autostrada. Come poi mi sembra che nella politica si sentano al di sopra dei normali cittadini e quindi possono essere condannati a 7 anni e continuare a fare quello che vogliono. Vabbè, insomma, il paragone mi sembra azzardato, però volevo chiudere questa prima parte con Califano. Lei è proprio così sicuro che questo grande raccordo anulare non va pagato, Califano? No, perché andrebbe pagato se ci si desse la possibilità di camminarci. Cioè solo se si può introdurre un pedaggio solamente se migliora. Se migliora la viabilità, se si fa più grande, se si allarga, eccetera. O no? Ma è chiaro, no? È io chiaro. Pago se si migliora. ...19:17, 800-24-0024, riprende la zanzara con il TG3. La maggioranza accelera sulle intercettazioni, in aula il 29 luglio, Fini, puntiglio irragionevole, il garante, a rischio la libertà di stampa. Il presidente dell'antimafia Pisanu, Cosa Nostra, fa ancora politica. Trattativa Stato-mafia? Ci fu qualcosa del genere. Da domani cala un po' la bolletta della luce, ma aumentano gas e autostrade. L'ira di Alemanno contro il pedaggio sul raccordo. Sfondo tutto. Al Consiglio dei Ministri Tremonti presenta le cifre del federalismo fiscale. Come cambierà il rapporto tributario tra cittadini ed enti locali. Inchiesta del TG3 a Prato. L'economia e la vita della città condizionate dalla comunità cinese più numerosa d'Europa. E c'è l'ombra della mafia. Come vivono i lavoratori dello stabilimento Fiat in Polonia il possibile trasferimento della produzione della Panda a Pomigliano? Viaggio del TG3 a TC. E la molestia via mail non costituisce reato, annullata dalla Cassazione una condanna perché il fatto non è previsto dalla legge. E andiamo a sentire Sky TG24. DDL intercettazioni in aula alla Camera a fine luglio, irragionevole, dice Fini. Il garante della privacy avverte e giustificato allarme per la libertà di stampa. In Senato gli emendamenti alla manovra, tagli più flessibili per le regioni. Federalismo fiscale, Tremonti ha illustrato i numeri a Palazzo Chigi. Tragedia di mafia, Pisanu insiste, ci fu qualcosa di simile a una trattativa. Tragedia in Salento, litiga con la moglie e strangola il figlio di 2 anni. Donna uccisa a colpi di pistola nel torinese, forse è un delitto passionale. In Italia quasi la metà di tutte le rapine europee, lo rivela un rapporto FIBA-CISL. Domani aumentano i pedaggi per i telespettatori di Sky TG24, è inaccettabile. Estremo saluto al guerriero, la salma di Taricone tumulata in Abruzzo. Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare. ripeto, non si farà, non verrà mai introdotta. Pare che il governo abbia dato le assicurazioni allo stesso Alemanno. Però certo, il sindaco che dice sfondo tutto, vado con la macchina e rompo il casello se mai dovesse essere introdotto e costruito. Poi, di fronte alle telecamere, ridimensiona, sentite. Prenderò la macchina e non andrò a mettere fuori servizio, perché il grande raccordo anulare è una strada interna per noi romani, quindi mettere un casello sul grande raccordo anulare significherebbe ostacolare la mobilità tra un quartiere e l'altro, non è pensabile. Ancora le vanno. Sulla questione del raccordo anulare però sono stato molto fermo, il governo mi ha garantito che non ci sarà nessun casello sul raccordo anulare. Però voglio farvi ascoltare Elio Vito, una delle frasi del giorno. Elio Vito in Parlamento così giustifica la nomina di Brancher a ministro, di cui non si conoscono ancora le deleghe. Si è ritenuto necessario che il sottosegretario Brancher assumesse la qualità di ministro per meglio operare in concerto con i tre ministri prima citati, così da conseguire una più rapida e completa realizzazione del programma di governo in uno dei suoi punti più qualificanti e complessi e nel doveroso rispetto del mandato ricevuto dagli elettori. La stagione dell'amore. Beh, insomma, se avete capito, fatemi un fischio, perché francamente, promosso ministro per meglio operare il concerto tra i ministri così da giungere una più rapida e concreta attuazione del federalismo nel rispetto del programma di governo e del mandato degli elettori, mi pare una cosa fantastica come spiegazione, qualcosa di strepitoso. Vorrei capire chi scrive queste cose. Vito, vabbè, ce l'abbiamo sto Di Pietro sulla coagulazione eccetera, sentiamo. Brancher in realtà è un coadiuvatore perché deve aiutare altri ministri a fare quel che compete ad altri ministri. Magari lo poteva fare da sottosegretario, invece gli si è detto è meglio che fa il ministro. Di occasioni. Telese, sei tornato. Coagulatore. Anche senti, tu sei un coagulatore, no. di che? Gossip politico scandalistici, cari Cruciani. Adesso finieni a lista nera. Adesso fai il serio, perché conduci la trasmissione che si dovrebbe chiamare 8:30, ma la Gruber ha voluto che non si chiamasse 8:30 ma in onda. Vedi che ci sono dei gossip in questo programma. Ma è vero che non ha voluto, che lei non ha voluto che si chiamasse 8:30, si può dire o no? Ma credo che non sia un mistero, però è anche giusto, insomma, no? Sì, sì, noi sicuramente. Ci ha permesso di farci un programma con una grafica, un bellissimo studio azzurrino. Ma chi ha scelto in onda, il nome in onda? Chi l'ha scelto? È un'idea della Luisella. Sei d'accordo? Ti piace? Sì. Lo devi dire per forza, comunque va bene. No, perché non è un brutto nome, a me piacciono molto quelle lucette. No, ma effettivamente così il marchio non è male. In onda poi dà subito l'idea di qualcosa in onda, certo non è... È bello che siamo in onda la stessa sera, prima noi, poi il tuo programma. Lo sai però qual è la notizia più strepitosa di oggi? Il sesso dopo 13 minuti già diventa noioso, sicuramente l'hai letto anche nei dettagli. Secondo degli studiosi inglesi che non si possono trasformare, ma ogni tanto escono fuori queste cose. Negli studi che secondo te non sono veri, no? Io sono, diciamo che ho chiuso la mia frequentazione con queste notizie quando ho scoperto che Sting non era vero, che aveva praticato il sesso tantrico per 4 ore. Cioè, però, quindi capisci, era il nostro simbolo, la nostra aspirazione. Cioè tu non credi che, almeno per quello che riguarda la tua esperienza, sì, no, questo lo so. Era uno scherzo congegnato con la figlia. Secondo te non è vero dunque che dopo 13 minuti già diventa noioso il sesso, come dicono questi studiosi inglesi? È assurda, cioè è una cosa così, no, ci sono minuti e minuti, si potrebbe dire. Da 7 a 13 minuti, orologio alla mano, è la durata perfetta di rapporto sessuale, però io sono quasi d'accordo, d'accordo, sì, assolutamente. Però si parla di sesso anche durante le notti mondiali della RAI, la mitica RAI, sigla della RAI, sigla. Viva la RAI, ti fa crescere sani. Beh, ieri sera, caro Luca, ho assistito a delle discussioni surreali nel programma in cui c'è anche Maurizio Costanzo. Si parlava per esempio del sesso prima delle partite, del sesso degli arbitri, con l'intervento di un sessuologo, Iannini, professore all'Aquila, non so se sia parente della moglie di Vespa, può darsi essendo aquilano. Però prima voglio farti sentire Giampiero Galeazzi, che è un mito, anche uno dei tuoi miti immagino, no? Bisteccone. ragione. E allora il coitus interruptus della nazionale, cioè la sconfitta della nazionale, ma sentiamo. L'eliminazione dell'Italia, visto che c'è lei, mi permetto, è un coitus interruptus. Sì, è veramente un coitus interruptus. Sì, è andata così. È andata così. L'immagine rende questa tragedia nazionale perfettamente. Sì, sì. Grazie, professore. Complimenti. Tutto questo di notte alla RAI con Costanzo. Però tecnicamente direi che si sono fermati i preliminari. Iannini, che è questo professore, questo sessuologo, a un certo punto era già stato protagonista di una performance in cui paragonava un gol a una penetrazione. Ieri è tornato su un altro argomento, sentite. Il sesso alimenta se stesso in qualche modo, nel senso che l'attività sessuale è in grado, attraverso la produzione di questo ormone, il testosterone, di farci desiderare l'ulteriore attività sessuale. Non siamo mai sazi. Al contrario, quando cessiamo per qualche motivo di fare sesso, è come se regolassimo il termostato dello scaldabagno a una temperatura più bassa. Tutto si raffredda. Va bene, devo dirti, passando a cose un po' più serie, Luca, che secondo me Saviano, parlando della vicenda di Taricone e mettendo in mezzo Berlusconi, ha sbagliato. Ti faccio sentire per le parole, poi mi dici come la pensi. Cioè, dice, raccontando un episodio, un colloquio con Taricone, beh, insomma, io lo ricordo soprattutto che perché mi ha dato la solidarietà quando Berlusconi mi attaccò. Insomma, riesce a mettere Berlusconi in mezzo anche parlando della morte di Taricone. Secondo me non era il caso. Saviano, sentiamo. La cosa che più mi addolora è che non sono riuscito a ringraziarlo. Lui mi aveva difeso quando avevo ricevuto l'attacco di Berlusconi, insomma, che diceva che il mio libro aveva diffamato l'Italia. Lui mi aveva difeso pubblicamente, cosa non scontata per un casertano, e ho molta sofferenza per non essere riuscito a dirgli grazie. Comunque di lui resterà il ricordo di un uomo del sud Italia, orgoglioso di esserlo e con la voglia di fare e di vivere. Io non mi iscrivo al partito degli anti-Saviano, però citare Berlusconi pure durante il giorno della morte di Taricone perché ricorda la solidarietà di Taricone mi sembra, insomma, francamente non era il caso. Credo che avendo conosciuto fugacemente Taricone, lui aveva avuto quell'esperienza incredibile, no? Nel movimento Dini, e poi non si esprimeva più politicamente. Quindi è vero che quella cosa gli deve essere un po' costata. Cosa dici? La difesa di Saviano, cioè una cosa che è costata qualcosa, cioè no, era fuori dalla sua indole, no? Non pensava di essere un profeta, un vate politico. Noi abbiamo mandato una bellissima intervista ieri sulla 7, molto autoironica, molto bella. Io sono proprio tariconeo al cubo e credo che fosse fuori dai suoi binari e lui lo abbia voluto fare, quindi per carità nessuno dovrebbe misurare gli altri su come si comportano solo con loro, però... Non ti è sembrato fuori luogo? No. Questo ricordo. Vabbè, Feltri su Brancher. Ti faccio sentire un Feltri abbastanza arrabbiato col governo, comunque molto critico nei confronti di tutta la vicenda, ma non, insomma, no, penso che in pochi difendano tutto quello che ha fatto il governo nella vicenda Brancher. Avere un ministro al federalismo che affianca un altro ministro al federalismo che è Bossi, il tutto per un federalismo che non c'è, mi sembra quantomeno ridicolo. Certo, se Brancher fosse stato messo alle attività produttive, forse avrebbe avuto un senso alla manovra. Così invece si ha l'impressione che sia stato un modo, un tentativo maldestro per consentire a Brancher di difendersi dall'assalto della magistratura, assalto, diciamo così, più che altro dall'inchiesta. E la pensa come te, Feltri, eh? Tentativo maldestro di... Dai, non abbiamo un ministero per l'attività produttiva, ora a ottobre scadono le casse integrazioni, cioè non c'è una tratta, ci sono 200 tavoli aperti, non c'è un ministro, non si sa. Io penso che quella sia veramente un'emergenza. Ha ragione Feltri, voglio... è un vate, un guru su questo. Anche Belpietro. Anche Belpietro, che in questo paese non è una distinzione fra destra e sinistra, e fra giornalisti che la pensano direttamente ma hanno un minimo di codice, no? E come si fa a dire che uno non ha un ministero alle attività produttive e ne nomina uno vice al federalismo? Io continuo a sostenere la candidatura di Lippi per l'attuazione del punteggio. Si dà già fa sentire questa canzone quando tu passava sto guaglione, soltanto un anno fa, dicendo piano piano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, buon amore. Silvio Berlusconi, Apicella, in una performance, in una composizione, una canzone, qualche mese fa. Berlusconi ha detto in Brasile che ci sono 14 sue canzoni nell'archivio storico della musica napoletana. Come autore di canzoni sono già passato alla storia. E poi sono l'unico italiano che scrive musica, samba e bossa nova in dialetto napoletano. E qui, insomma, bisognerebbe capire quali sono i risultati della musica samba e bossa nova in dialetto napoletano. Ma andiamo agli ascoltatori all'800 24 00 24. Valerio D'Arieti, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Posso darle del tuo o si offende? No, diamoci del lei, così siamo tutti così. Benissimo. Allora, io volevo dire una cosa relativamente a questa uscita, questo ennesimo delirio di Berlusconi sul fatto che lui adesso addirittura si sente grande compositore, autore, passato alla storia addirittura. Allora, io siccome faccio questo mestiere qui, faccio il musicista, sì, il compositore, mi sento offeso dall'ennesimo delirio di questa persona che ormai... Offeso, mi sembra esagerato. Valerio, lei la conosce la musica napoletana? Sì, io conosco abbastanza un po' tutta la musica, le posso dire che non esiste un decalogo di autori che passano alla storia come lui ha millantato di aver detto. Sinceramente non credo esistano questo tipo di cataloghi, e se esistessero forse dovrebbe fornire una prova. Allora io voglio dire soltanto 14 una cosa, sue canzoni nell'archivio storico della musica napoletana. Allora, effettivamente bisognerebbe storico, capire se esiste l'archivio storico. Se esiste, chi l'ha creato, chi l'ha composto, perché se l'ha composto un suo amico è abbastanza facile farcelo rientrare, no? Diciamocelo francamente. Allora questo, Cruciani, mi permette, è l'ennesimo delirio di questa persona. Che è delirio, adesso non esageri, offende le categorie di persone che fanno parte di questo paese, e non è la prima volta, perché gliene dico un'altra. No, adesso mi scusi un attimo, Valerio. Dicendo che ci sono 14 sue canzoni nell'archivio storico della musica napoletana e come autore di canzoni sono già passato alla storia, secondo lei offende una categoria? Beh, insomma, adesso Valerio, confronti di chi fa veramente questo mestiere. Ho capito, ma insomma, non mi pare un'offesa. Si chiama Berlusconi, no? Allora, siccome non è la prima volta che lui c'ha questa uscita di onnipotenza, perché un Dio facilmente cade nell'errore di esagerare, gliene faccio una. Vogliamo ricordarci da porta a porta. Ma guardi, la sento male, adesso la richiamiamo. Giuliano da Bergamo, buonasera. Buonasera. Dica. Un piccolo intervento a proposito del fatto che non si voglia far pagare il raccordo anulare lì di Roma. Sì. Io domani mattina alle 5 col camion dovrò partire da Bergamo e andare in consegna a Biella, transitando quindi su alcuni tratti di tangenziali milanesi. Sì. In alcune tangenziali si paga, in altre no, mi segnala l'ascoltatore. Esatto. Ma non mi pongo neanche il problema se dovrò pagare, lo pagherò. E sono anch'io in giro per lavoro. Qui al nord ci si arrabbia per forza di queste, diciamo, cose che al sud non vogliono iniziare a capire. E dopo non... Beh, Roma non è al sud, le faccio presente. Centro-sud comunque. Dopo non ci si lamenti se qui al nord la Lega continuerà ad avere sempre più consenso. Vabbè, adesso non è questione di Lega o no. Lei pensa che il grande raccordo anulare di Roma vada pagato? D'altronde, se dobbiamo fare sacrifici, che li si faccia un po' tutti. Grazie, Marco da Forlì. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Niente, io ero un pochino in disaccordo con l'ascoltatore prima, nel senso che secondo me la questione del raccordo anulare deve fare un pochino riflettere sul fatto che alla fine questa crisi la paghiamo sempre noi poveretti, insomma, noi comuni mortali. Adesso io non so se lei sa di qualcosa che non... Che so vuol dire la paghiamo noi comuni mortali? No, nel Marco, senso che alla mi fine spieghi questa ha... frase che è sulla bocca di tutti, ma non si capisce mai cosa vuole dire. No, nel senso che in Italia diciamo che chi ha più privilegi alla fine questa crisi, insomma, non la sta pagando, e chi ha causato la crisi, ad esempio le banche, stanno, a lei le risulta che stiano pagando la crisi, cioè hanno delle sovrattasse. Mi scusi, però Marco, a me quando uno mi fa un discorso, la crisi la stanno pagando sempre noi, ma la paga anche lei, adesso da domani quando va a far benzina o metano la paga anche lei, quindi nel senso siamo poi sempre noi quelli il popolo paga sempre gli errori, probabilmente anche di chi poi li ha fatti, e alla fine non... Che significa non, il popolo? Non li paga. Che significa il popolo? Il popolo, le persone, diciamo, comuni, insomma, quelli che vanno a lavorare la mattina, che hanno uno stipendio di 1.000-1.500 euro. Io ho 33 anni e penso che diciamo che questa crisi Va bene. La sto pagando io, ecco. Anche lei, adesso lei non so quanti anni ha, però mi sembra abbastanza giovane. No, più di 40. Comunque, sì, alla fine la paghiamo noi, ecco, quindi attenzione a dire nord contro sud. Bisognerebbe dire più nord e sud, se proprio vogliamo trovare di dare contro a qualcuno, probabilmente chi ha causato questa crisi, insomma. Va bene, Valerio D'Arieti, buonasera, abbiamo ripristinato il collegamento, mi dica. Allora, tornando sempre al discorso di Berlusconi musicista, allora? Sì, esatto, allora io quello che le voglio dire, Cruciani, è che io la sento da 2 anni, mi piace molto la sua trasmissione e penso che lei sia una persona intelligente, però qui è arrivato il momento che cominciamo a mettere un po' dei freni Sì, però non si senta offeso da musicista, perché non è il caso. Lei qual è la frase più strepitosa, se vogliamo anche più ridicola, che ha pronunciato Berlusconi in Brasile? Un attimo, me le lasci dire, Valerio, si fermi. Le cose più importanti della vita sono le donne, il calcio e gli amici. Sono l'unico italiano che scrive musica samba e bossa nova in dialetto napoletano. Sono il presidente del club più vincente della storia. Ci sono 14 canzoni nell'archivio storico musica napoletana. Sono passato alla storia come autore di canzoni. Lula all'occhio birichino, bellissima questa. Ho chiesto a una cameriera se voleva farsi una ciulatina, ma questa la sappiamo. Ho la fila di ragazze che vogliono sposarmi adesso che sono ridiventato single. E poi ho avuto 12 fidanzate brasiliane. Qual è, a parte l'indignazione sulla musica, cosa l'ha fatta più ridere o sorridere? Non c'è niente che la fa sorridere? No, assolutamente, io non sorrido dello spazio. Non sorride, e sorrida, e sorrida pure. Sinceramente, siccome lei è una persona intelligente, io le chiedo a lei per cortesia di cominciare a smetterla di ridere all'uscita di questa persona. Ma io rido, ma che significa? Che bisogna fare? Ma sicuramente non bisogna ridere, Cruciani, abbia pazienza, questo che dice che le donne sono la cosa più importante, poi c'è il calcio, poi c'è le amicizie, lui è il compositore, lui è bravo di qui e lui è bravo di là, ma cioè, ci rendiamo conto, questa è la persona, è presidente del consiglio. Dunque lei non ride, non ride. Il presidente del consiglio c'ha questi valori, secondo me è scandaloso, glielo dico francamente, secondo me è scandaloso. Avere avuto 12 fidanzate brasiliane, magari insomma per qualcuno. Sì, ma questo continuo a ostentare le sue grandi capacità di superuomo, ma a che serve? Sinceramente, a che serve? No, non serve a niente, è fatto se così. Non offendere l'immagine della popolazione italiana all'estero. Lui dice che bisogna ridere. Da quando è venuto al mondo. Lui dice, dice che bisogna ridere nella vita. Allora, chi non ride non riesce a fare nulla. Porta a porta. Che è successo? Nel salotto di casa sua con tanto di cameriere che porta lo champagne, che è beffa. Ho sentito rispondere a una ragazza che gli diceva: ma presidente, io e il mio compagno non riusciamo ad arrivare a fine mese. Me lo ricordo. Risposto, ha fatto male, si poteva scegliere mio figlio. Allora, quella è famosa, Valerio, non è che l'ha sentita solo lei. Allora, siccome non l'ha sentita solo lei, io sinceramente mi permetto di alzare la testa, perché mi sento offeso. Vabbè, alzi la testa. Persona che non sono figlio di papà, sentirmi dire che io non sono un buon, tra virgolette, partito, perché non ho i miliardi che mi escono. Va bene, grazie. Cristian da Brescia, buonasera. Cristian. Buonasera. Non si sente. Claudio da Vicenza. Buonasera. Dica. Senta una cosa, la domanda che io le vorrei fare è questa: perché si deve dire, ma come? Se la tangenziale di Milano si paga, perché non si deve pagare a Roma? La domanda va posta. Vabbè, ci sono delle cose anche storiche, sono due cose un po' diverse, naturalmente. No, io perché penso io, no? Che non si dovrebbe pagare a Milano, perché quante volte si pagano queste autostrade? Cioè, io le do un esempio. Guardi, Spagna, le strade, in alcuni paesi le strade sono state costruite anche in periodi diversi, eccetera. Ogni strada ha una storia diversa, ogni paese ha una storia diversa per quello che riguarda la costruzione delle autostrade. Allora, in Italia di solito si pagano, a Roma c'è il. Ma in Italia di solito si pagano tante cose che non si dovrebbe pagare. Comunque, se mi fa finire il concetto è questo: io devo fare una strada che costa 10 euro, 10 pedaggi di un euro, faccio i 10 euro, recupero i soldi, ammortizzo le autostrade, levo i caselli, non li pago più. Vabbè, è complicato. Claudio, cosa vuole dire? Mi spieghi cosa vuole dire? Voglio dire, li spiego molto chiaramente, che noi continuiamo a dire che qua e non vogliamo pagare e che vogliamo tutto, e che nel sud non si vuole pagare e nel nord si paga, sono tutte stupidate. In tutta Europa, la maggior parte dei paesi, le autostrade non si pagano, tranne qualche eccezione. Ma non è vero, non è vero. Ma come non è vero? No. In Gran Bretagna si pagano, in Germania non si pagano. Allora, in Gran Bretagna non è che si paga dappertutto. Non è che capito, in Svizzera c'è un abbonamento, in Svizzera c'è un abbonamento, in Austria c'è un abbonamento. Claudio, non è così come dice lei. Diverso. Io viaggio in autostrada, faccio 5.000 km al mese in Italia. E allora non ho capito, secondo lei non si dovrebbero pagare? No. Io non si dovrebbero parlare. Sto dicendo che, allora mi fa finire, o se no lei la faccio finire, fa tutto, partecipa lei, chiama, si chiama lei a se stesso e finiamo il discorso qua. Dica. Ecco, allora io dico una cosa, che io tutti i mesi pago 400 euro di autostrada perché usufruisco dell'autostrada, la uso, come io tanti altri che usano l'autostrada allora... per lavoro. Queste autostrade sono state pagate 150.000 volte. È quello che voglio dire. Claudio, però adesso non andiamo a complicare, non andiamo a complicare il discorso. Secondo lei il grande raccordo anulare va pagato oppure no? Non vogliamo approfondire. Va pagato oppure no il grande raccordo anulare? No, secondo me non va pagato assolutamente, perché io già pago le mie tasse quando lavoro. Benissimo, benissimo. Non devo pagare tutte le cose. Lo vede che lei è, lo vede che lei è i miei soldi per mantenersi. Benissimo. Perché loro continuano a rubarsi. Ma che c'entra adesso questo populismo? Berlusconi che canta. Porca tu stai ca, non sa c'è ca già fa, si dà già fa, senti che sta canzone quando Fabio Granata, PDL, buonasera, mi scusi di averla introdotta con Berlusconi buonasera. Che canta in dialetto napoletano. No, ascoltavo anche il ragionamento sulle autostrade. Come, che ne pensa lei di questa storia del grande raccordo anulare? A parte che non ci sarà mai un pedaggio sul grande raccordo anulare, io sostengo perché in Italia non cambia mai nulla. Quando I servizi se migliorano vanno pagati dai cittadini. Non capisco perché sia così inconcepibile. Oggi, tra l'altro, abbiamo il sindaco di Roma, il presidente della provincia che è della sinistra ed è Zingaretti, e il presidente della regione, chissà perché, casualmente tutti contro un'ipotesi lontanissima che non si farà mai, di introduzione di un pedaggio sul grande raccordo anulare. Ora voglio, non capisco, è normale perché c'è la, come dire, c'è una questione di bacino elettorale, lo capisco, però perché dovrebbe essere così scandaloso? Addirittura Alemanno dice vado là e sfondo tutto, non le sembra un po' esagerato? Sì, è un po' esagerato visto il tema. Senta, ma lei sulla vicenda di Dell'Utri come la pensa? Cioè, secondo lei dovrebbe fare un dovrebbe succedere qualcosa, si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare un passo indietro, diciamo, da deputato? Tutto abbiamo grande rispetto per la sentenza e per tutte le sentenze che provengono da una magistratura che è impegnata sul campo in una questione molto complessa e molto delicata. Ma dunque, secondo lei non c'è una persecuzione, come dice Dell'Utri, nei suoi confronti? Mi avviso, non c'è mai una persecuzione, ci sono delle inchieste che seguono i percorsi, che seguono i processi, e le sentenze non si discutono. Poi bisogna leggere le motivazioni, si appello, si va in Cassazione, ma non fare discussioni sulle sentenze è quanto di più sbagliato si possa fare dal punto di vista sia istituzionale che politico. Per quanto riguarda... Beh, però mi scusi un attimo, la voglio interrompere un attimo, poi mi parla del dato politico. Un imputato potrà pure sostenere che magari dei giudici sono pregiudizialmente contro di lui. Certo, può sostenere l'imputato, ma non io, non sono imputato. Per cui secondo lei alcune dichiarazioni di esponenti del centrodestra che si sono mostrati particolarmente contenti perché non è stato approvato nulla dopo il 92, o comunque dicono che è caduta la teoria del connubio, sono esagerate? Allora, francamente le ho trovate irrazionali ed esagerate, perché innanzitutto si festeggia una sentenza di condanna, questo non è rispettoso neanche nei confronti di Dell'Utri, e poi si interviene, come dire, all'interno di un procedimento di cui molti che dichiarano non conoscono un solo rigo, quindi credo che sia sbagliato anche questo aspetto. Per quanto riguarda la singola posizione, ovviamente è una scelta da un certo punto di vista che deve fare Dell'Utri. A mio avviso in Italia oggettivamente vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza della Cassazione, e formalmente nessuno è costretto a fare un passo indietro. Su un piano politico, la politica è un'altra cosa, si dovrebbe fare un passo in avanti, ma oggi chiedere questo alla politica italiana, cioè di andare oltre il dato formale della sentenza passata in Cassazione, credo che sia un fatto praticamente, ma non è comunque questo il tema. No, ma infatti il tema è, in realtà non è nemmeno quello delle dimissioni di Dell'Utri da deputato, perché poi tra l'altro Dell'Utri ha dichiarato non più tardi di qualche mese fa, prima al Fatto e poi in un'intervista qui da noi, che lui è entrato in politica per difendersi dai processi. Lei come trova questa cosa, il fatto che Dell'Utri sia entrato in politica? L'ho detto esplicitamente e da un certo punto di vista in maniera trasparente. Granata, non la senti, non so dove si trova, forse in macchina, cerchiamo di ripristinare il collegamento. Fabio Granata, esponente del PDL, ma andiamo a sentire Cristian da Milano. Sì, buonasera Cruciani. Io mi volevo soffermare sulla frase detta dal Presidente della Commissione Antimafia, da Pisanu, che io giudico abbastanza grave, nel senso che se un presidente della commissione antimafia e poi anche un deputato o senatore, adesso non so bene, del PDL, fa una dichiarazione così, nel senso che dal 92 al 94 c'è stato un intreccio di interessi criminali, mafiosi e con organi dello Stato deviati e si ha parlato quasi di golpe, io credo che sia una frase da sottolineare di una certa gravità. Vedo Beh, che insomma, dato... innanzitutto non è che abbia parlato in maniera così dettagliata di golpe, di intrecci, eccetera, eccetera. Ha detto sì, forse c'è stata una trattativa tra Stato e mafia. Mi sembra che siamo a questo punto, no? Sì, però non è proprio detto così, insomma era un pochino più articolato il discorso. Però vedo che non gli viene data molto risalto, secondo me da Pisano, che io stimo, anche stato ministro dell'interno, l'ho sempre reputato una persona molto seria, una dichiarazione così fatta in quel ruolo che presiede mi sembra che sia degna di essere soffermata e soprattutto approfondita. Poi volevo dire l'altra cosa, sulle frasi lì di Berlusconi che dice quando va all'estero. Se io fossi andato con degli amici in Brasile e nella nostra compagnia uno avesse fatto queste battute qua, gli avremmo dato del pirla. Adesso mi scuso la parola, ma veramente così? Che sicuramente non ci avrebbe assolutamente rappresentato in quel momento lì, perché voglio dire... E qual è la battuta che l'ha colpita di più, mi scusi? Ma quelle delle 12 donne in Brasile, voglio dire, non è che... Beh, si riferiva agli anni 70, non è che si riferiva adesso. Una volta che ero andato là in una missione come imprenditore, ancora peggio, sono tornato ancora... e avevo avuto 12 fidanzate brasiliane. Ancora peggio, voglio dire, se negli anni 70 ne ha avuto solo 12, voglio dire, ancora peggio, quindi non c'è proprio da vantarsi, secondo me. Però questo tono qua così goliardico, sempre sorridente, si fa presto con la pancia piena a essere sempre sorridenti. Ma che c'entra la pancia piena adesso, Cristian? Non c'entra niente la pancia piena, cosa vuol dire la pancia piena? Non c'entra niente. No, non c'entra nulla, la pancia piena, lei può criticare tutte le frasi che vuole, ma che c'entra la pancia piena? No, che cosa critica? Berlusconi è un miliardario, mi scusi? No, non è... Allora, che significa la pancia piena? Ma nel senso, quando i problemi reali poi... Ho capito, ma Berlusconi dice, io sorrido, rido, e chi non ride non combina niente nella vita. Io non l'ho visto tanto ridere quando... Io voglio dire, l'immagine di Berlusconi, io non l'ho visto tanto ridere quando doveva andare nei vari tribunali, non mi sembra quando si arrabbiava con i giornalisti spagnoli, io non l'ho visto tanto ridere lì. Ci sono delle cose che lo fanno tanto incazzare, però ride quando vuole lui, allora... Facciamoci capire, o ride sempre, o non è che ride non solo è capace, non può ridere quando vuole lui, no, lei vuole decidere quando può ridere o quando non può ridere Berlusconi. No, ma è lei che lo vuol decidere. No, lei dice, lo vuol decidere. No, io non voglio decidere niente, A lei dà fastidio che Berlusconi rida? No. Che Berlusconi no, si diverte e faccia battute? Che Berlusconi rida, a lei dà fastidio che Berlusconi abbia sempre questo tono di sottovalutare la situazione. E ci prenda... questa è un'altra cosa. Ci prende sempre in giro col fatto, non pensate alla crisi, tanto c'è la pillola che vi fa pensare, cioè non è così. C'è la pillola? C'è la pillola? No, io vorrei qualcuno che mi dicesse le cose stanno così, c'è bisogno di sacrifici e faremo questo, soprattutto da un leader come colui che in questo momento si sta rappresentando. Io reputo la figura del leader in quel senso. Va bene, grazie. Domenico, provincia di Roma, buonasera. Buonasera. Senta, se mi permette, io mi sento un po' protagonista questa sera. Abbia pazienza, dall'oggi al domani il signor Tal De Tali decide che si alza la mattina, si lava la faccia e poi nel giro di poche ore mi raddoppia il pedaggio autostradale di un povero Cristo, dico io per dire come tanti, che vanno a lavorare, fanno quei pochi chilometri per mettersi nel raccordo anulare e riuscire di nuovo per pochissimi chilometri. Per la bella faccia di qualcuno? No, non ho capito bene, Domenico. Lei è favorevole o contrario, allora? Che il raccordo si paghi? Sì. Il raccordo si deve pagare, perché i sacrifici li facciamo tutti. Oh, meno male. Mi spieghi perché va pagato? Perché secondo lei c'è molta gente che lo fa per 1 o 2 chilometri allora, guardi, e dunque intasa tutto, è così? Le faccio l'esempio del coglionella della mattina, no? Coglionella. E che vuol dire? E io mi sento un coglionella. Vabbè, un coglione, insomma. Alzo, prego. Un coglione, un coglionella che sei. Sì, il coglione, no? Vabbè, ci spieghi perché. Il coglionella si alza la mattina e va a lavorare, va bene? Allora, va a lavorare. Non è una cosa così strana, non è una cosa così strana alzarsi la mattina e andare a lavorare, Domenico. No, ma per qualcuno siamo diventati dei coglionella. Vabbè, Domenico, vabbè, la prenda per buona. Sì, no, sì, la prendo per buona. Allora, io dico una cosa, no? Mi devo immettere nel raccordo anulare per pochi e dico, guardi, un paio di... Allora, 7 bagni, per esempio, via Flaminia. 7 bagni, via Flaminia è 1,2 metri, 1,2 chilometri. Benissimo, pagherò per quel 1,2 chilometri raccordo anulare, no che da piano romano, perché il discorso è questo, da piano romano come tante tangenziali milanesi e quant'altro, è stato deciso all'imbocco dei però Domenico non andiamo nel dettaglio, sennò ci perdiamo, no, e poi no, ci ascolta molta gente, ho capito, c'è molta gente che non è di Roma. Secondo lei va pagato perché? Mi lo spieghi in 2 secondi, perché allora, va pagato? Il raccordo anulare va pagato, sì. Perché prima di tutto nella vita siamo tutti uguali, uno. Due, c'è l'esigenza proprio strutturale di pagare il raccordo anulare, perché il raccordo anulare comunque è un tratto di autostrada, perché è un tratto di autostrada. Poi terzo, prego? Terzo motivo? Terzo motivo è perché se i soldi non ci sono a Roma, non ci saranno né a Fiano Romano né tantomeno sulle tangenziali milanesi. Abbiate pazienza. Ho capito, grazie. Vale per tutti. Va bene, Roberto da Grosseto, buonasera. Non ho capito ancora perché, comunque va bene. Roberto. Sì, buonasera. Dica. Intervenivo su 2 argomenti. Vabbè, l'ironia del Premier, oggi è abbastanza gettonato come argomento, personalmente non lo ritengo un difetto, ma una qualità, magari andrebbe accompagnata ad altre qualità per essere apprezzata fino in pieno, probabilmente le persone che la trovano un po' stucchevole sono quelle che non riconoscono al Premier queste qualità, cioè di riuscire comunque a affrontare in maniera seria, guarda caso in maniera seria, le problematiche del Paese. Non ho capito nulla, Roberto. Glielo dico più semplicemente, magari è stato un po' articolato. L'ironia va bene, sì. Alla serietà. Capito, Roberto, però questo è scontato. È scontato. Poi lì la serietà ognuno la giudica in maniera diversa, altrimenti non ci si dividerebbe tra berlusconiani e anti-berlusconiani, insomma, mi sembra. No, lungi da me dal fare il censore dell'ironia, sennò veramente già il mondo è grigio. Però ecco, cioè molti contestano il fatto che Berlusconi vada in Brasile e se ne esca con frasi di questo tipo. Per esempio, ha avuto 12 fidanzate brasiliane, ci sono 14 mie canzoni nell'archivio storico della musica napoletana, come autore di canzoni sono già passato alla storia, sono l'unico italiano che scrive musica samba e bossa nova in dialetto napoletano. Questo è il punto. Secondo lei ci sta questo atteggiamento di Berlusconi oppure no? Ma è opinabile, chi lo può ritenere adeguato, chi no. Questo lo sappiamo e dunque lei non ha un'idea precisa. Benissimo. Siamo qui alle 21 minuto, TG5. Intercettazioni alla Camera dopo la finanziaria, Fini, Puntiglio irragionevole, critiche dall'opposizione, il PDL nessuna forzatura. Tremonti, la manovra uscirà invariata dal Parlamento, resteranno i tagli alle regioni, ma le amministrazioni più virtuose saranno premiate. Pietro Taricone riposa nel cimitero di Trasacco, il padre duro a accettare la sua morte, per me era il simbolo della giovinezza. In tutta Italia un'ondata emotiva davvero inaspettata, esclusiva del TG5, il numero zero dello Storicone. Terribile tragedia nel Leccese, un uomo strangola in un raptus il figlio di 2 anni, poi tenta il suicidio. A Brindisi una coppia con 2 bambini costruisce una casetta abusiva in campagna, giudici inflessibili, lei finisce in carcere, lui potrebbe essere arrestato a giorni. Arriva il gran caldo, 35 gradi di media, si stabilizza l'alta pressione, sole ovunque e temperatura in aumento. Sentiamo anche il TG1. Intercettazione, il testo in aula il 29 luglio, Fini, Puntiglio irragionevole, il PDL separi i ruoli, garante privacy, l'allarme per la stampa. Relazione dell'antimafia Pisanu, dietro le stragi intreccio tra Cosa Nostra, politica e servizi deviati, Grasso, belle teorie, servono prove. Tragedia familiare nel Leccese, un uomo uccide il figlio di 2 anni strangolandolo, poi tenta il suicidio, aveva litigato con la moglie. 12enne in coma dopo un volo di 10 metri, sfidava gli amici a lanciarsi dai tetti, un gioco che si chiama parkour ed è molto pericoloso. Vietati i massaggi abusivi sulle spiagge italiane, i gestori degli stabilimenti dovranno segnalare le violazioni al divieto. L'ultimo saluto a Pietro Taricone, a Trasacco il dolore dei familiari e degli amici, su internet l'omaggio del popolo del web, inchiesta del TG1 sul paracadutismo, sport estremo che piace, tanti però gli incidenti, 7 i morti nel 2010 in Italia. Bene, Francesco da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Intanto sono dispiaciuto per quei poveretti che hanno costruito la casetta in campagna in Puglia e ora vengono arrestati. In che senso, mi scusi? Non ho capito. Sono dispiaciuto per quei poveri, per quella povera coppia di giovani che hanno costruito la casetta abusiva, abusiva vuol dire senza permessi, ovviamente non vuol dire abusiva, in Puglia e adesso vengono arrestati. Va bene. Senta, io sono uno dei tanti romani che qui vuole intervenire sulla questione del raccolto anulare. Innanzitutto, se lei vive a Roma e è passato da Roma, sa che è impensabile mettere dei caselli sul raccolto anulare, è proprio tecnicamente impossibile. Beh, niente è impossibile, niente è impossibile, Francesco. Si potrebbe pure. Certo, ci sono tanti metodi, anche quello di pagare prima senza per forza avere un casello. Dove? Sulla cassa, la vista com'è la cassa, la cellulare. No, ma la pagare prima, non con un casello. Ci sono tanti metodi per far pagare le persone. Se uno vuole. Quindi sono, ma, diciamo, ci sono tanti metodi, le ho detto. Comunque, vabbè, guardi, non è tecnicamente impossibile. Non è tecnicamente impossibile. Certo, se noi vogliamo spendere. Non so quanti mila miliardi per rincassarne la metà, pur di dire abbiamo fatto pagare questi maledetti romani, sì, lo possiamo fare. Tra l'altro, comunque, il raccordo anulare di Roma è a tutti gli effetti una strada urbana. Il 90% delle persone che lo prendono si spostano da un lato all'altro di Roma. E questo è tanto vero che Alemanno, che ogni tanto dice qualcosa di giusto, voleva far costruire un raccordo ancora più esterno. Comunque, a parte questo, io direi che la cosa che ho trovato un po' triste, un po'... diciamo che ci dà l'idea dell'aria bruttarella che si respira, ecco, è stato questo conducente del nord che invece di riflettere su quanto fosse una cosa abbastanza medievale e sorpassata, questo di mettere balzelle e gabelle di paesaggio dappertutto, invece volesse far pagare due romani. Cioè, io veramente credo che certi. Beh, ma queste cose di nord e sud. Gratis, se guardi, io sono romano e sono favorevole in linea di massima al fatto che il grande raccolto anulare si paghi, per cui non è questione di nord e sud. Le assicuro che non è questione di nord. Se qualcuno usa se qualcuno utilizza questi facciamo pagare pure uno sulla casa, uno appena si muove da casa paga. Ma non c'entra niente, Francesco, le tangenziali in molti posti si pagano e nessuno si lamenta, per cui le tangenziali non mi sembra. Mi dica lei dove la metterebbe, insomma, cioè, ma lasciamo perdere le questioni tecniche su cui si può discutere. Dopodiché lei dice, siccome è un... E noi che facciamo allora? Tutti quelli che passano sul raccordo li facciamo passare dentro il centro di Roma, no. Che già è poco. Un attimo solo, blob Dostoevskij, fratelli Karamazov. All'inizio c'è Andrew, non so come si dice in russo, che viene presentato dal protagonista come il mio eroe. Ha detto: è un furfante, però è il mio eroe. Era la parte finale del ragionamento di Dell'Utri su Mangano. Grazie a Francesco. Michele da Milano. Pronto? Dica, Michele. Pronto? Sì, buonasera Cruciani. Buonasera. Senta, volevo dire una cosa sul raccordo e se mi è consentito una cosa anche su di un attimo solo, perché c'è Sallusti da Dario, sempre a Blob. Ma a me, ma non facevano false promesse? Non illudevano la gente? No, guardi, no, diciamo io immagino, non lo so, non c'ero, ma io c'è credo. C'è stata una falsa promessa, io c'ero. Io non so cosa le hanno promesso, Il presidente lei. Diceva che non mi conosceva, che non si ricordava il mio viso. È difficile. Beh, sai, evidentemente, evidentemente non ha colpito il presidente. Del mio viso? Da Dario, la fermiamo un attimo. Facciamo finire Sallusti e poi abbiamo la sera. C'erano 20 ragazzi. C'è tempo, da Dario, si ferma un secondo. Il presidente che ha fatto un atto privato in lei una casa privata dovrebbe raccontare agli italiani di avere conosciuto uno come lei, di cui io mi vergognerei personalmente. Beh, guardi, ma le dirò di più, siccome io conosco, io conosco i dati di vendita, vogliamo il parlare libro, delle altre escort? Stamattina quando mi sono fatto la barba ho capito che mi avrebbero condannato, perché ero bello tranquillo, facevo la barba, quando ho pensato a un certo momento alla sentenza di oggi, toc, mi sono tagliato un po', proprio qua, infatti ce l'ho ancora forse. Ho detto, caspita, ci sarà un tagliettino, ecco, il tagliettino è arrivato. Michele, allora? Sì, buonasera. Allora, io sono assolutamente contrario che le tangenziali si paghino, sì. Quindi non è che a Roma si deve pagare, è che a Milano non si deve pagare. Vabbè, adesso mi meraviglio che la Lega non cavalchi questa cosa, perché nella maggior parte mi spieghi perché non si dovrebbe pagare, mi scusi, ma perché fanno parte, a parte che non è vero, questa è una balla colossale il fatto che nella maggior parte dei paesi del mondo non si pagano le tangenziali. No, ma chi l'ha detto? Michele, non è vero. Se uno va in, ascolta, ascolti, io sono andato a Mosca, c'è un bell'anello. Ah, lei è andato a Mosca, io sono andato a Parigi e si pagano, che vuol dire? No, come no? Sì, le strade sono abbondantemente inattivo, non c'è, non esiste una, sì, ma adesso lasciamo perdere questi argomenti. Secondo lei la tangenziale a Milano si dovrebbe pagare e dunque è impensabile fare pagare il raccordo anulare a Roma. D'accordo, insomma, va bene. No, non bisogna pagare a Roma, non bisogna pagare a Milano. Perché? Perché ci sono le tasse, perché già paghiamo con le tasse. Perché già paghiamo abbastanza. Vabbè. Non, voglio dire, forse, cioè, dobbiamo aiutare. Allora, secondo questo ragionamento, Michele, mi scusi, allora non si dovrebbe pagare, che ne so, il ticket perché già paghiamo le tasse, non si dovrebbe, cioè, siccome paghiamo le tasse, dove è eccessivo non bisognerebbe pagare, questa è la democrazia. Vabbè, ed è eccessivo quanto costa la tangenziale a Milano? È certo che è eccessiva. È eccessivo. È eccessivo, è come? Alla faccia che è eccessiva. Vabbè, Michele, lei provi a girare e poi se ne rende conto. No, però io giro, non è che vivo sulla luna, giro. Ho capito. Magari non sarà eccessivo, magari non sarà eccessivo per me, che se lei dalla parte est deve andare a lavorare a Cinisello Balsamo e ci va, sì, al mattino e alla sera è costretto ad andare in macchina, premetto. E allora? Il problema è che in tanti posti si è costretti a usare la macchina. Allora? Non è un lei dice un costo quotidiano. È un costo quotidiano. Un costo quotidiano. Allora, 1,5, sì, 1,5 sono 3 euro. Faccia la somma e poi vede. Va bene, Michele, grazie. Cioè, pubblicità. No, volevo dire una cosa su Di Pietro, se mi dica. Allora, sì. Che ha fatto Di Pietro oggi? Di sapere chi è il professore di italiano che l'ha promosso. Va bene, lasci guardare. Adesso queste sono polemiche sterili, che non sono nemmeno troppo nuove, Michele. Che significa? Che cosa ha detto di nuovo Di Pietro? Che l'ho promosso. Ma che vuol dire, Michele? Che vuol dire? Ma come che vuol dire? Ma non sono ma è una cosa che si dice da anni, secondo, non ci dice niente di nuovo lei su Di Pietro. Secondo i parametri di Di Pietro, giusto? Sì. Lui, che è stato promosso da un professore che doveva essere inquisito. Lei vuole continuare a fare questa polemica su Di Pietro, sull'italiano di Di Pietro. È una polemica ridicola. Ridicola per ma me. Ridicola adesso, non ha senso, non che vuol non dire? Ha senso, certo, che se nessuno l'ha detto mai da 20 anni. Ma come nessuno l'ha detto mai, Michele? Io l'ho sentito, io non so chi è, ci sarà un professore, nome e cognome, che l'ha promosso, sto asino. Vabbè, Michele, adesso non mi faccio difendere Di Pietro, perché notoriamente non sono quello che difende Di Pietro, però insomma, di fronte a questi attacchi così scriteriati mi viene voglia di difenderlo, anzi lo difendo. Siamo qui 20:12, andiamo in provincia di Napoli, Claudio. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io volevo fare un intervento su maestro Califano, che diceva di migliorare, se nel caso migliorasse la fruibilità del traffico sulla raccordo anulare, lui avrebbe pagato. Volevo solo precisare che a Napoli io prendo da tempo la tangenziale e la mattina alle 7 e si resta imbottigliati senza riuscire poi ad avere una fruibilità migliore. Ma lei dice per il pedaggio? Per il pedaggio, sì. Si possono studiare altri modelli, altre tecniche, ci sono delle tecnologie diverse per pagare. Noi a Napoli lo paghiamo da tanto tempo, del traffico, e comunque la tangenziale di Napoli è una delle poche che si paga in Italia. Da tempo si protestava su questo fatto che la tangenziale dunque, di Napoli non ho capito, è una delle poche. E dunque? Non migliorerebbe mai il servizio, cioè migliorando le strade, sulle infrastrutture, non è che il governo fa questo tipo di non ho capito. No, volevo dire, comunque il disagio noi lo paghiamo da tempo sulla tangenziale di Napoli, ecco, questo volevo dire. Vabbè. Che comunque non è un problema di traffico, cioè di traffico che si rimane imbottigliati o meno, è che comunque vuole dire, Claudio, io non ho capito niente, no, lei dice c'è traffico sulla tangenziale di Napoli, cosa che insomma è abbastanza nota in tutta Italia, sì, è per il pedaggio oppure no? Anche per il pedaggio. E no, dunque, secondo lei a Roma va fatto questo pedaggio, va messo sul grande raccordo anulare oppure no? Insomma, Claudio, mi dia delle risposte. Secondo me sì, va messo. Va messo, ecco, vabbè. Sono d'accordo. Un po' contraddittorio, ma comunque. Va bene, Claudio. Cristina da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Io sono di origine romana, ho una casa vicino al raccordo, però sì, vivo a Milano e pago sulle tangenziali milanesi che sono a pagamento, in particolare il ramo nord. E tutti i giorni pago per andare al lavoro. Sì. Non sono contrario, io sarei favorevole, perché non per una questione di Roma-Milano, però come pagano a Milano, mi sembra giusto anche far pagare ovunque ci sia in gestione una strada che costa molti soldi, di manutenzione. Sì, questo può darsi, però non è che non si può fare il ragionamento, siccome si paga a Milano allora si deve pagare anche a Roma. Questo... No, non è per quello, tant'è che io le dico, in entrambi i casi ne usufruisco, non è che parlo da milanese e dico però esce a me e non esce agli altri, perché comunque mi penalizzo io stessa quando vado giù. L'altra cosa è, anche se non è assimilabile, sicuramente è una cosa diversa, quando hanno introdotto l'Ecopass a Milano e non solo nel centro storico stretto ma in una cerchia grande, c'è gente che si è trovata a non poter spostare la macchina sotto casa, anche se fosse un Euro 4, perché la tecnologia è andata avanti, per cui un Euro 4 oggi paga l'Ecopass. Vabbè, adesso non entriamo nei dettagli dell'Ecopass. C'è gente che ha un abbonamento, tra virgolette, avendo una casa nella posizione. Non mi sembra così scandaloso, ma si può ragionare sull'Ecopass, naturalmente. No, voglio dire che ci sono diverse forme. Comunque di abbonamento che possono essere convenienti, anzi per i lavoratori forse sarebbe il caso di farle anche al nord, magari non sono così diffuse. Grazie, abbiamo il traffico però, giusto appunto, traffico. Grazie, arrivederci. Siamo qui 20:17, 800 24 00 24 per chiamarci, ancora ascoltatori. Carlo da Modena, buonasera. Buonasera. Dica. Io, come milioni di italiani, penso soprattutto le donne, amo molto il senso dello humor. Già il suo mi piace molto, e poco fa qualcuno invece l'ha accusata di mettere un po' a ridere tante volte argomenti seri, e il nostro Presidente del Consiglio ce l'ha spiccatissimo, e io credo che questo senso dello humor l'abbiano le persone che hanno una forte, come posso dire, personalità, sono ottimiste, che si sono fatte da sé, e ovviamente Berlusconi è un uomo che ha fatto il cantante nelle navi, ha venduto porta a porta, ha fatto il commesso, è una persona che è sicura di sé, e gli è antipatico, chi gli va a dire non arrivo alla quarta settimana del mese, sapendo benissimo il Berlusca, come tanti di noi, che non è vero, che tutti possiamo arrivare alla quarta settimana del mese, naturalmente se accettiamo di fare anche i lavoretti umili che lui ha naturalmente fatto. Beh Carlo, lei però mi pare veramente un cantore di Berlusconi, un super tifoso, un super elettore. Sì, io amo la persona che lei ama è positiva, la persona che è positiva. Che è positiva, e Berlusconi è un positivo che si può permettere di fare quelle battute che certamente sono discutibili, ma che sono tipiche delle persone ottimiste, delle persone che hanno il sense of humor, e Berlusconi ce l'ha. Berlusconi ce l'ha. Dire, però ci sono degli italiani, pure lei, ci sono degli italiani che non ridono, però. No, sono troppo seriosi, troppo pessimisti, per posso dire negativi, troppo e sono negativi. Le persone che vedono con antipatia proprio l'opposto di se stessi. Cioè, però voglio dirle una cosa, quando Berlusconi dice ci sono 14 mie canzoni nell'archivio storico della musica napoletana, come autore di canzoni sono già passato alla storia, secondo lei se l'avesse detto Cruciani, non c'è un po' di millanteria in questa cosa qua? Non certo, c'è un po'... ma provi a dirlo lei. No, ma io non lo dico perché per se me lo dice lei è una battuta che fa ridere, se lo dice Berlusconi a me fa ridere, ma non fa ridere a quei signori che gli hanno telefonato, perché Berlusconi, non perché la battuta che in sé è cretina, Carlo, altro, mi perché scusi. La possiamo dire tutti sta battuta. No, a parte che non mi sembra una battuta, io dico spesso che sono citato in alcune enciclopedie per le mie performance sessuali, faccio ridere quando lo dico, nessuno odia quando io dico sta cosa, si mette a ridere. È una battuta che abbiamo fatto all'università un po' tutti diciamo esagerazioni, iperboli ed altro, ma se lo dice Berlusconi si alza mezza Italia e la fa diventare un fatto di Stato. L'altra mezza però la c'è anche da dire, Carlo, che Berlusconi non è un italiano qualunque, no? Giusto, ma lui non riesce a contenersi, è così. È così, è a lei piace così. A me piace così perché è quello che volevamo, non volevamo più i doppiopetti di certa gente, perché naturalmente... I doppiopetti Berlusconi ce l'ha pure dopo... Sì, è diverso, lei ha notato... Ha un doppiopetto diverso. È un Berlusconi che ha il doppiopetto con le battute, gli altri erano i doppiopetti con gli accenti strani e troppo seriosi, questo ce ne siamo liberati finalmente, vogliamo qualcosa di nuovo, l'uomo Berlusconi lo critichiamo, da 15 anni che c'è quello Berlusconi. Che rappresenta... questa positività, questo ottimismo ancora noi lo desideriamo e speriamo che non lui come persona fisica ma lui come spirito di diciamo come spirito ci porti fuori da quella famosa esagerata e seriosa prima repubblica da cui vogliamo uscire, proprio anche con le canzonette, con le battutine da bar, perché questo è l'italiano che vuole crescere e vuole uscire da a lei Berlusconi periodo... quando ho capito Carlo lei insomma, è un confuso periodo. Più che dell'uomo dello spirito, come devo dire, dello spirito spirito, io dello dico, spirito se di lei Berlusconi. Non si offende, lei no, Cruciani a me è simpatico. Vabbè, adesso che c'entra, io sono simpatico, mi scusi. Tante cose che danno fastidio ai suoi ascoltatori. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Quando lo metti in ridere, no, lei, ma no, per carità, a me invece non quella, quella irridente maniera di ridurre tutto a qualcosa di tutto sommato discutibile e accettabile che invece altri non hanno, perché c'è gente che non sopporta. Senta, ma Carlo, Carlo, ma lei non ha lo spirito di, a lei piace lo spirito di Berlusconi, sì, e vuole di tutti coloro e spera che Berlusconi accettabile anche le cose più cattive, e spera che questo spirito di Berlusconi resista, sì, resti per l'eternità in Italia. Sì, perché, beh, certo, ovviamente accompagnato a qualcosa anche di costruttivo, ma le persone di humor mica sono Speriamo. Per questo stesso fatto negative. No, no, ma io non ho detto questo. Però guardi, le faccio osservare che quando Berlusconi dice ci sono 14 mie canzoni nell'archivio storico della musica napoletana e come autore di canzoni sono già passata alla storia, secondo me non scherza, Berlusconi. Beh, io guardi, l'ho sentito cioè, anche lei ci crede? Lei ci crede? Più che crederci, trovo la cosa simpatica. Come se la dicessimo in salotto davanti a un tè, poi tocca a un altro dirne una anche più grossa. Ho capito, ma non è che siamo in salotto. Il presidente del Consiglio come è, un che uomo, è un uomo vero, è un uomo che fa queste battute che si possono. Perché scusi, nei nostri salotti, anche se siamo persone molto, molto serie, non facciamo le stupidate col bambino a cavalluccio? E perché non dobbiamo, se siamo presidenti del Consiglio, andare in giro col bambino a cavalluccio? Perché non dobbiamo essere uomini con le battute degli uomini qualunque? Ma perché? Perché fingere di essere seri quando si è. Senta. Amore mio. Mi dica la verità, Carlo, lei fa impazzire questa cosa. A me fa sbellicare. Vorrei averlo qua che ci mettiamo a cantare il Materasso tra professori universitari, perché vado, stiamo parlando non proprio semplicemente fra pastori, ma fra persone anche impegnate intellettualmente, eccetera, ma che amano avere sempre quella piccola parte di sé, di bambino, diciamo, dentro di noi, che si lascia andare e che vede il mondo con una ottica sempre ottimista. Quarta settimana, terza settimana, vuoi campare, c'hai gli 800 euro, ebbene vanni a prendere altri 800 in nero, sono 1.600, come abbiamo fatto sempre tutti. E perché andare da Santoro a dire non posso pagare il mutuo, non posso mantenere i figli? Sappiamo tutti che non è vero. Lui perché prende in giro la ragazzina dicendole sposati uno come mio figlio? Perché viene provocato dalla ragazzina che è andata a lamentarsi davanti a milioni di telespettatori, davanti al Presidente del Consiglio, vuol fare una lagna dicendo io sto morendo di fame. Si meritava quella risposta. Ecco il Berlusca spiritoso. Quel signore che ha telefonato poco fa non l'ha capita. Caro Carlo, io la vorrei invitare tutte le sere. Insomma, lei ha un eloquio, un modo di parlare strepitoso. Lorenzo da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Beh, dopo aver sentito questo fenomeno, Carlo è il, come dire, dovrebbe essere assunto da Berlusconi come, no? Agitprop. Quando sento parlare di ottimismo, la persona ottimista, mi vengono le emorroidi. Vabbè, a parte quello. Vabbè, no, perché questo, scusi Lorenzo, sì, però non è che uno non può essere ottimista. Sì, ho capito, una macchietta, quello lì. Vabbè, volevo dire un'altra cosa, telefonavo per un'altra cosa. Ieri i titoli dei telegiornali, primo titolo del TG5, la morte di Tarricone, Matrix speciale per Tarricone, ieri sera Matrix speciale per Tarricone, con la giornalista la Palombelli, quella che ha il marito... Vabbè, la moglie di Rutelli, allora che vuol dire? Ecco, però mi sembra la moglie di Rutelli. Ma a lei sembra, cioè, un paese normale che una puntata speciale di Matrix su Tarricone, ma chi è? Ma cosa ha fatto? Scusi, però, Lorenzo, abbia pazienza. No. Ma di cosa che deve aver pazienza? Non è che a parte che per fortuna c'è un'autonomia da parte delle televisioni, decide se fare uno speciale o non fare uno speciale. Sì, no, ma ho capito, ma cioè, come prima notizia la morte di Tarricone. Guardi che della morte. Matrix speciale di Tarricone la dice lunga sul paese. Ma anche la dice lunga sul paese. No, non trovo che sia così, Lorenzo. No. No, non trovo che sia così, perché della morte di Tarricone. Guardi, c'è un ragionamento molto semplice da fare. Della morte di Tarricone di ieri parlavano tutti. se lei andava al bar, se lei no, ma che vuol dire? Che, perché lei dà un giudizio su quello di cui parlano gli italiani? Di cosa dovrebbero parlare? Di dell'utri, mi scusi, la gente parlano anche di dell'utri, sicuramente. La signora Palombelli ieri sera diceva che su Facebook ci sono i ragazzi disperati per la morte. Ma lasciamo perdere quello che ha detto la Palombelli. Probabilmente ci saranno anche su Facebook delle persone disperate. Vabbè, insomma. Ma lei cosa sta criticando? Il fatto che la gente sia disperata? Io non capisco. Lei sta criticando il fatto che la gente sia disperata oppure che Canale 5 ha fatto uno speciale sulla morte di Tarricone? Mi scusi. In un paese più o meno di subnormali, ma pensavo che. Ma perché lei deve giudicare? Deve giudicare subnormale chi è subnormale, chi è dispiaciuto per la morte di Tarricone oppure chi ha visto lo speciale sulla morte di Tarricone? Ma come si permette? Ma come si permette lei, Lorenzo? No, ma scusi, ma adesso, per l'amor di Dio, un Matrix speciale per Tarricone? Cioè, ma non posso accettare una cosa del genere. Ma chi è? Ma cosa ha fatto? Ma chi è? Ma perché dobbiamo fare un Matrix speciale su Tarricone? Perché tutto il popolo vuol vedere quelle notizie. Allora, cioè, ma perché lei fa questa? Lei perché fa questa dietrologia? Il popolo che vuole vedere quelle notizie, eccetera. Tarricone è un personaggio riconosciuto dal grande pubblico, un personaggio popolare. A lei non piacerà, non l'avrà mai visto, non gliene fregherà niente. Però è così, è un dato di fatto. Come non è la questione? Questa è la questione. E dunque Canale 5, che dove è stato per la prima volta il Grande Fratello, fa uno speciale sulla morte di Tarricone, uno speciale di Matrix. Non ci vedo niente di particolarmente bizzarro, Lorenzo. Lei fa tutto un ragionamento sul paese, quello che si vede in televisione, quello che non si vede in televisione, ma insomma, di che parliamo? Sì, vabbè, ma guardi, ok. No, non capisco perché lei è così scandalizzato, mi scusi. Ma Matrix non è, cioè dovrebbe, almeno non è, dovrebbe essere un programma di intrattenimento di un certo livello alla sera, cioè. Guarda, lei forse non vede bene Matrix. Matrix affronta argomenti di politica, ma anche argomenti un po' più leggeri. In questo caso c'è una morte di mezzo, certamente non è un argomento leggero. Leggeri, anche l'altro porta a porta fa argomenti leggeri. E allora? Politica. Ho capito, ma mi sembra veramente oltre questo, cioè, ma stiamo parlando di una persona che non chi è, ma cosa ha fatto? Io quello che voglio dire è un personaggio popolare, Lorenzo. Sentiamo sempre peggio. Mi scusi. No, se non mi fa parlare non dica stupidaggini, perché la sto facendo parlare da 10 minuti. No, quello che volevo dire io, il personaggio popolare non è che lui è popolare, l'hanno fatto diventare popolare, questo me lo fanno capire. Vabbè, ma quello è un altro discorso, Lorenzo, l'hanno fatto diventare popolare, che significa? Allora lei contesta il fatto che c'è stato il Grande Fratello. Comunque abbiamo la borsa, torniamo subito. Questa è la canzone con cui mi sono mantenuto alla Università della Sorbona, perché di giorno studiavo e di notte cantavo a Parigi. Sensationnel, on y parle de la France, à la tour de Paris. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché de l'amour, c'est le couen ou d'un boule, ceux qui prennent la nuit pour le jour. Onda, il caso dell'Utri. Doveva essere una sentenza che rifaceva e riscriveva la storia. Lo ha detto nell'ultimo intervento che ha fatto davanti ai giudici, è stato esplicito su questo. E cosa era la riscrittura della storia? L'idea che tra il 92 e il 93 si consumò una trattativa tra che sta prendendo naturalmente la parte della sentenza in cui si parla dei rapporti tra mafia e politica. 800 24 00 24. Andiamo in provincia di Messina. Lino, ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Io telefonavo semplicemente per informarla che gli incrementi sui pedaggi autostradali su di me personalmente hanno un incremento del 30%. Nel senso che stasera mi corri che ho pagato 2,20 euro per fare Roccarumera Catania, domani pagherò 2,80. La cosa le provoca sconquassi? Ma non è un problema di sconquassi, in termini percentuali. No, ma non era ironico, era un... No, ma ci mancherà, no, mi provo a sconquassi, lo moltiplichi per 22 giorni mensili, per un anno, e veda lei insieme a me di fare un calcolo. Non mi cambierà la vita, però mi dà da pensare. Bisogna sempre vedere, Lino, oltre alla questione degli investimenti, che è molto complicata dal punto di vista economico, qual è la media in Europa per quello che riguarda il pagamento dell'autostrada. Insomma, un mio amico amico che vive in Svizzera mi diceva che si paga una quota fissa annua. Sì, sì, in Svizzera funziona così, ma ci sono anche molto meno autostrade poi, rispetto all'Italia. Io metterei in discussione non tanto l'incremento, perché ovviamente se il servizio c'è, perché non pagarlo? Mi sembra che sia anche questa la sua filosofia, di almeno in compagnia tutti i giorni mentre torno dal lavoro, e quindi sento che lei è molto critico in positivo, ecco, non critico in un polemico nelle cose. Dico, ma se ci fosse un'autostrada funzionale, con tutti i servizi, tenuta bene, mio Dio, tutti ben d'accordo a pagare. Perché invece nel suo caso? Se lei viene un attimino dalle nostre parti, le gallerie non sono illuminate, segnali stradali non ne parliamo, la vegetazione è in piena corsia, cioè siamo in provincia di Tunisi probabilmente sotto questo profilo, ma è una denuncia pubblica. Di quale autostrada sta parlando lei? È la Messina-Catania. La Messina-Catania. Va bene, grazie Lino. No, grazie a lei, buonasera. Paolo da Brescia, buonasera. Sì, buonasera. Dica. L'intervento riguardava Berlusconi in Brasile, perché mi pare di non aver capito una cosa, cioè che cosa è che è andato a fare Berlusconi in Brasile? A firmare degli accordi commerciali. Allora, quindi cioè, come si può giudicare quello che fa e dice senza però prima capire che cosa ha in mente Berlusconi? No, però, mi scusi Paolo, non è che qui stiamo giudicando, non è che stiamo giudicando la visita in Brasile di Berlusconi, gli accordi commerciali, stiamo giudicando alcune esternazioni di Berlusconi che hanno fatto parte della visita in Brasile. Ma sì, perché Berlusconi, da businessman qual è, probabilmente ha capito che magari, cioè è una mia teoria, però ha capito che magari deve conquistarsi un po' anche un'audience brasiliana, perché il business è fatto anche di rapporti. Io credo, secondo che lei lui, dicendo che ha avuto 12 fidanzate brasiliane, si riesce a conquistare qualcosa? Ma non è il singolo di quello che ha detto, bisogna capire in che momento l'ha detto, a chi l'ha detto, chi c'era in quel momento. Voglio dire, credo che l'obiettivo finale di Berlusconi sia instaurare rapporti con Lula e instaurare rapporti commerciali con il Brasile. Secondo lei si instaurano rapporti anche in questo modo? No, è una domanda. Beh, voglio dire, lui ha instaurato rapporti con Putin anche conquistandolo con la simpatia, Gheddafi, voglio dire, è uno che sa benissimo che il business lo si fa anche con instaurando rapporti interpersonali. No, ma Paolo, non c'è dubbio che il business si fa anche in questo modo. Detto questo, ripeto, dire, non lo so, ci sono diverse frasi, cioè, 13 che non segnali. Che manca l'informazione, cioè uno dice a priori non va bene o va ma bene. Ma non stiamo dicendo non va bene, non stiamo dicendo non va bene. No, gli ascoltatori sì, lo dicono, voglio dire, no? Beh, io non lo so se va bene o non va bene, dipende quali sono gli obiettivi di Berlusconi in questo viaggio e dipende che risultati. D'accordo, dopodiché, secondo lei, a lei fa impressione, le fa pensare il fatto che Berlusconi racconti un episodio, non si sa bene se è vero o no, oppure se sia una barzelletta oppure no, come questo, cioè ho chiesto a una cameriera se voleva farsi una ciulatina con me, ma lei mi ha detto che l'avevamo fatto un'ora prima. Ribadisco, non so bene in che frangente l'abbia detto, sicuramente comunque io non credo che Berlusconi sia così sorridente, perché lo è lui, ma è un uomo, è un grande comunicatore, quindi sa benissimo quando è il caso di essere... Ho capito. De Magistris su Dell'Utri, sentiamo. Esterno, cioè ha dato un contributo causale, determinante, favorevole all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, per 15 anni, sino al 92. Non è il processo a Forza Italia, ma è indubbio, e questo lo dobbiamo riconoscere tutti, che Marcello Dell'Utri è stato persona determinante nella nascita di Forza Italia, uno degli uomini più vicini a Berlusconi, il ponte di collegamento tra Palermo e Milano, una persona che ancora oggi osa dire che Mangano è un eroe, e mi inquieta, devo dire la verità, che anche adesso Quagliariello, come ho potuto leggere immediatamente dopo... Quagliariello, chiedo scusa. Volevo dire, trovo inquietante che si metta proprio adesso in discussione ancora una volta il guarda caso, la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, che va di pari passo alla proposta legislativa. Abbiamo Matteo Pontes, buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Quanti anni ha lei, Pontes? 20. 20 anni. Insieme a, non so se sia suo coetaneo, Andrea Sora? Sì, esattamente. 20 anni pure lui? Sì, 20 anni anche lui. Lei ha scritto un libro che ha un titolo significativo, all'ombra del Duomo, ma non parla del Duomo di Milano, bensì della statuetta del Duomo che Tartaglia ha lanciato contro Berlusconi. Esatto. È stato presentato da alcuni giornali in questo modo: il tarocco anti Silvio, l'aggressione è una truffa, la Feltrinelli di Milano in vendita un libro sull'attacco al Cavaliere in Piazza Duomo. Fu tutta una messa in scena. Ora, lei sa che Tartaglia è stato giudicato incapace di intendere e di volere, no? Esatto. Ma al di là di questo, insomma, non penso che voi vi interessate di questo aspetto, perché voi parlate di una messa in scena? Ancora siete convinti che è stata una cosa costruita non si sa da chi, o su cui ci sono molti dubbi, il sangue, tutta quella storia lì? Davvero siete convinti che ci sono dubbi su questa vicenda? Beh, ci sono... noi mettiamo in evidenza dei dettagli che sono abbastanza evidenti. Non diciamo in nessuna parte del libro che è tutto un complotto, mettiamo soltanto in evidenza i dettagli. Come diceva Biagi, denunciare fa parte del giornalismo, proporre soluzioni è della politica. Noi denunciamo dei fatti. Per esempio, all'interno del libro viene citato un video del TG4 che va in onda subito dopo l'attentato e fa vedere l'arresto di Tartaglia e poi successivamente Silvio Berlusconi in piedi sull'auto senza nessuna ferita, senza sangue, niente. Che è uno scenario del tutto differente da quello che poi abbiamo visto tutti per giorni nei telegiornali nazionali. Capito, dunque secondo lei, al di là delle cautele, noi proponiamo dei fatti e poi sono gli altri a dover dare le risposte. Al di là di questo, non è che lei si può nascondere dietro? Assolutamente no. Ecco, appunto. Questo sangue da chi sarebbe stato messo? A un certo punto sarebbe intervenuto qualcuno che ha messo del sangue finto sulla bocca di Berlusconi? Mi spieghi? È probabile. Berlusconi entra in macchina con una busta nera, come tutti abbiamo visto, davanti alla bocca e poi ne esce completamente insanguinato. Cioè lei è davvero convinto che Berlusconi non sia stato ferito poi così gravemente e che qualcuno abbia improvvisamente architettato una messa in scena di questo tipo? Oppure sarebbe stata architettata addirittura prima? Cioè Tartaglia sarebbe stato reclutato da qualcuno per creare una situazione di questo tipo? Mi spieghi? Una delle due, perché o la situazione è stata improvvisata, ma... È stata improvvisata, ma? Sì, la sento. O la situazione è stata improvvisata e organizzata sul momento, oppure era premeditata. Da quello che abbiamo analizzato noi sembra tutto premeditato. Diciamo. Cioè, mi scusi, Tartaglia è reclutato da qualcuno? Tartaglia potrebbe essere stato, sì, reclutato da qualcuno per far sì che ciò accadesse. E secondo lei da chi? Non lo so da chi. Vabbè, ho capito, ma si sarà fatto certo, un'idea, no? Il tutto va a favore di Silvio Berlusconi, però io non so certo se è stato lui o qualcun altro. Comunque, vi ho detto, ci sono dei particolari abbastanza strani, come il pixelaggio, per esempio, del video che tutti abbiamo visto quando Berlusconi è in auto. Hanno detto ufficiosamente che era per coprire al momento delle cure mediche, come lei saprà, già c'era il medico in macchina di Silvio Berlusconi. Sì. Era per coprire. E questo è sospetto, secondo lei? È sospetto? No, il Rai News 24 aveva giustificato così, era per coprire le ferite del Premier, ma poi le abbiamo viste in Mondovisione continuamente per giorni, quindi sembra una scusa poco plausibile. Insomma. Leggo da qualche... avere delle risposte, io avessi delle risposte sulle tante domande, poi abbiamo fatto 17 domande che non hanno trovato risposta. Una delle più significative qual è? Mi faccio un esempio. Una delle più significative è per esempio quel video del TG4, cioè quello è un video in diretta, non è stato montato a differenza degli altri, si vede Tartaglia arrestato, Tartaglia viene arrestato 30 secondi dopo il lancio della statuetta, circa 37, e dopo la telecamera gira la visuale verso l'auto del Premier, c'è il Premier in piedi sull'autovettura, accanto il bodyguard e la faccia completamente pulita, senza tagli. Come mai il video non è stato più mandato e come mai la dinamica è totalmente differente? Senta, leggo da qualche parte che l'architetto di tutto questo complotto sarebbe stato la Russa, secondo voi? Ma non dite questo, non sostenete questo. No, non abbiamo detto questo nel libro, abbiamo detto che forse la Russa, se tutto fosse una messa in scena, era consenziente e consapevole della cosa, perché ci sono vari gesti e segni che è difficile spiegare adesso, con l'ausilio dei video è molto più facile, comunque l'abbiamo spiegato bene nel video, però il libro con l'ausilio dei video... rende bene molto l'idea, rende molto bene. Poi certo, ognuno ha sempre la sua opinione. Certo, voglio dire, secondo voi però l'ipotesi più semplice, cioè che Tartaglia effettivamente so, mezzo mattoide, un personaggio con vari problemi, abbia tirato una statuetta addosso a Berlusconi, che Berlusconi sia rimasto ferito, che è, diciamo, come dire, l'ipotesi secondo me anche più credibile. Per voi è invece una cosa che non esiste. È una cosa poco probabile. Poco, diciamo, probabile. Ci sono troppi fattori che mi fanno pensare il contrario. Questo. Se fosse. Ma lo scopo di questo quale sarebbe stato? Lo scopo di tutto questo? Lei si ricorderà, Crusani, che prima dell'attentato, sì, addirittura il giorno prima, io riporto un articolo di Libero, è per questo che poi siamo stati citati, sì, dove Libero dice: anche noi siamo coinvolti, ma nessuno l'ha coinvolto. Noi parliamo di Libero perché Carioti disse. Si sta preparando un'alleanza, una grande alleanza per il paese, si ricorderà Casini, Bersani e Di Pietro, allora? Tutti insieme, esatto. Allora noi abbiamo citato Libero perché Carioti, il vice direttore, disse domenica ci potrebbero essere i fuochi artificiali. E quindi, ma fuochi artificiali, ricordiamo, fuochi artificiali, ma io non dico che è riferito alle parole di Berlusconi, esatto, non perché... Esatto, ma noi l'abbiamo citato perché era simpatica come cosa, ma no, assolutamente non abbiamo ho capito, mai detto, ma scusa, questa messa in scena, questo ferimento di Berlusconi, eccetera, che scopo avrebbe avuto? Che vantaggio ha ottenuto Berlusconi da questo? Innanzitutto un aumento di 6 punti di percentuale secondo il sondaggio di Mannheimer. Silvio Berlusconi era un momento difficilissimo, appunto Casini aveva dato la disponibilità per l'alleanza. Ma lei ci crede davvero a queste cose? No, me lo dica sinceramente, così dal profondo, ci crede per davvero? Al di là dell'operazione del libro, che io posso anche capire, ma ci crede per davvero a questa cosa oppure no? Sì, è probabile, è molto probabile. Siamo qui, Mario da Roma. Pontes, grazie, grazie di essere stato con noi. Prego, grazie a voi. 20:48, Mario da Roma, prego. Buonasera, salve. Prima di tutto volevo chiederle se chiama tutte le sere Carlo da Modena, perché è stato spettacolare. Un altro Ma adesso non ci risponde. I lavori di Berlusconi, ci diceva pure che pescava nel lago di Tiberiade. E secondo poi volevo un po' anticipato però parlare del raccordo. Io sono uno di quei tantissimi che vivono a Roma ma dormono fuori, vivo a Formello. E il terrore per tutti non è solo comunque quei probabili 300-400 euro all'anno di pedaggio, ma è il fatto che, sapendo con che intelligenza organizzano queste cose, abbiamo tutti il terrore di caselli che rendano assolutamente invivibile il discorso. Tutti sono terrorizzati in realtà da quello, infatti Alemanno nella sua battuta non parla tanto di soldi, parla: se lo fanno vado lì e lo sfondo. Perché il problema è che qui mettere anche solo una bandierina vuol dire chiudiamo Roma, lasciamo perdere e facciamo altro, ecco. Ho capito. Non è per rispondere al primissimo. No, ho capito, non è una questione chiamato. Non è una questione solo di soldi. Grazie. Andiamo a Trento, Paolo. Eccomi qua. Dove non hanno questi problemi di raccordi anulari. No, noi non abbiamo questi problemi, noi abbiamo comunque un'autostrada, la A22, che costa comunque molto di più delle autostrade italiane, perché con i viadotti sono cioè costruire i viadotti e mantenere e fare la manutenzione è anche più costoso. Però io volevo intervenire a proposito del senatore Dell'Utri, perché cosa ci voleva dire di nuovo su Dell'Utri? Ma di nuovo niente, mi piacerebbe che succedesse. Sentiamo un attimo sulla 7 quello che sta succedendo. Se la Pisa fosse intenzionale, cioè, magari Dell'Utri vuole io so per certo che anche alcuni compagni, cioè, Rina, anche alcuni compagni del partito di De Magistris, qua c'è sicuramente intenzionalità, hanno contrapposto a Mangano Falcone, mentre quando Falcone era in vita l'hanno isolato e hanno fatto di tutto per dargli in testa, e ci sono prove documentarie su questo. Lei sa cosa sta parlando? I giovani del Popolo della Libertà che contrappongono il giudice Borsellino, detto... però all'eroe Mangano, no? Hanno anche chiesto che vengano espulsi dal partito i condannati per mafia. I giovani... Lei condivide questa? Sono giovani del PDL. Non, condivide questa non richiesta? Condivido questa richiesta. Ritengo che nella DNA anche dei giovani di centrodestra ci debba essere il garantismo. De Magistris prima diceva. Ora Quagliariello tira fuori il concorso esterno, io ho detto che per quel che mi riguarda è una posizione culturale che io ho da sempre, da 30 anni, perché ritengo che le fattispecie giuridiche debbano far riferimento ai fatti e non agli atteggiamenti psicologici. Detto questo, le dico anche un'altra cosa, che per i giovani è meno grave e ritengo che i giovani a quell'età si possono consentire di tutto, anche dal mio punto di vista, di sbagliare. Quindi ah, non quindi mi sembra. Secondo lei? Io penso che sbaglino e penso. Vorrei, non per difendere i giovani di Forza Italia, un altro discorso. Io da lei, loro dicono di. La sentenza definitiva è un'altra cosa. Ah, ecco, no. Quindi lei è d'accordo con è un'altra questo. Cosa, sentenza definitiva è una sentenza definitiva. Vorrei allora Paolo, sulla questione dell'Udri cosa voleva dire? Ma io volevo dire soltanto che, cioè, appunto, come dicevo prima, a me piacerebbe che succedesse qualcosa di nuovo in Italia, perché io sono convinto che dell'Udri potrebbe con dignità fare un passo indietro e dimettersi, perché in ogni, cioè, io penso che in tutta Europa, io ricordo Kohl quando era stato sospettato di avere pasticciato con i conti del partito, lui si è dimesso immediatamente. Io penso che questo esempio, secondo me, è un partito nuovo come il PDL che ha velleità di essere, di portare la novità, la trasparenza, no, però ecco, io penso che dovrebbe dimettersi, insomma. E io vabbè, penso però anche... non mi sembra, però nel caso di Dell'Utri, siccome lui l'ha ripetuto più volte, io sono in Parlamento anche per difendermi meglio, eccetera, non mi sembra che sia in discussione la questione delle dimissioni, magari si porrà nel momento in cui c'è la condanna definitiva, però lei dice per una questione di opportunità, allora è un discorso che si poteva fare anche dopo la condanna in primo grado, almeno quella in secondo grado, insomma. Ecco. Ho capito, va bene. Ettore da Milano, buonasera. Buonasera, prego. Volevo intervenire dopo l'intervista che ha fatto poc'anzi all'autore del libro sul complotto all'ombra del Duomo, sull'attentato a Berlusconi, sì. Di Tartaglia. No, le volevo chiedere, lei è stato abbastanza sarcastico, ho sentito, nei confronti dell'autore. Come minimo. Volevo sapere soltanto se i complotti di cui parla lei in televisione sono più interessanti, magari del complotto che sarebbe stato ordito. Non lo so, magari è interessante anche questo, non lo so, mi sembra ancora una cosa abbastanza fragile per diventare una materia da complotto. Non mi sembra che, francamente, che ci siano le basi per discuterne. I filmati, il sangue che prima c'era, forse che prima non c'era e poi ci sarebbe stato, insomma. Non mi sembra che ci sia materia del contendere su questa roba. No, uno non vuole fare dietrologia, però bisogna inquadrare bene il periodo in cui è stato fatto. Ho capito, perché non credere a un'ipotesi molto semplice, che uno squilibrato, lo dico tra virgolette con tutto rispetto per una persona, abbia tirato una statuetta addosso a Berlusconi, punto. Perché non credere a un'ipotesi molto semplice di questo tipo? Lei non ci crede? No, io credo che se i complotti ci sono e lei ne ha fatto una trasmissione. Ma che c'entra il fatto che io abbia fatto una trasmissione? Scusi, non è che tutto è riducibile a complotto, però. No, dico, allora. Non è che solo i complotti di cui tratta lei. Ma no, ma chi dice questo? Ce ne sono tantissimi altri. Ma nessuno dice il contrario. Bisogna vedere il contesto in cui è avvenuto questo attentato, tra virgolette, la situazione è molto difficile. Io le ho chiesto una cosa, Ettore. Lei crede che ci sia stato un complotto organizzato da uomini di Berlusconi per favorire Berlusconi nei sondaggi attraverso un attentato contro di lui? Lei crede un'ipotesi del genere? Io non so chi l'abbia organizzato, però so nella storia d'Italia che ogni volta che c'è stato un periodo di difficoltà. Lei non mi vuole dare una risposta? Io ci credo. Lei ci crede, ci posso anche credere. Ci però, può anche credere. Anche perché la storia d'Italia è piena di complotti e di situazioni strane. E lei. Lei insiste ancora una volta. Ho capito, lei insiste su questo come se io dovessi dare credito a qualsiasi voce, a qualsiasi storia. Non è così, insomma. È un altro discorso. Va bene, dove andiamo? Luigi, provincia di Chieti. Grazie, Ettore. Luigi. Buonasera, Cruciani. Prima di iniziare il mio intervento, voglio dire che in questi giorni che lei è stato assente, un po' ci è mancato. Credo di poter parlare a nome di tanti altri. Ma Alessandro Milan è bravissimo, per cui. No, ma questo è senz'altro vero, senza ombra di dubbio. Però magari la Zanzara era un binomio con Cruciani. Bene, grazie, Luigi. Dunque, sono tornato e abbiamo pochi secondi, però. Vabbè, dico subito: in merito alle battute di Berlusconi. La più bella, quale? Mi dica la più bella, la ciulatina, le 12 fidanzate brasiliane. Cane, la canzone napoletana, mi dica la più bella. La più bella, dai, diciamo forse la canzone napoletana. Le altre potevano sembrare un pochettino un po' volgarotte, magari. Come autore di canzoni sono già passato alla storia. Luigi, devo chiudere stasera. Va bene, come tutti noi, però. Se vuole ci sentiamo domani, A domani. A domani. Bocca giusta e ca, non sa c'è che già fa, si dà già fa sentire questa canzone quando tu passavi sto guaglione sul tanto nana fa, dicendo piano piano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, buon amore. Guardati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. La Zanzara.